Attenzione Bacchigio! Attenzione Bacchigio! Bacchigio! Signor Bacchi! Attenzione signor Bacchigio! Eia! Lei! Giovanni! Attenzione con prenno, stai uscendo male! Come sto uscendo male? Aspetta un attimo! Aspetta qua un attimo, sta con tutto! Stai innescando! Aspetta, Dio, che sono che spenta, se no. Fari, tu sì! Guarda in questo passaggio, uno, due, tre, prova. Farino, tu sì! Ehi, sono io, avanti! Ma va, ti comprendo! Tanto, ti comprendiamo da dare che ha veduto a Mondessa appresso! Ehi, c'ho un motocorrere, forse il tempo, qua sta quasi deluviando, figurati! Lo so che sta, è fine, è sempre andendo! Ehi, ma poco fa era forte, adesso è fitta! Così vuole, fine, è sempre andendo! Vabbè, PMR, ti ho sentito PMR! Cos'è Mari? E ti ho sentito al PMR. Oh, no, stavo parlando con Graziano al PMR. Siamo nel soldo poi staccato, aspetta, non so che c'ho la finotto. Ecco qua, staccato. Ecco. E con chi stiamo parlando, Graziano? Oh, con cosa? Con Bombo, non so, boh. Ah, con Bomboretta, ho capito. Ma chi si è entrato? No, lo già meno, ma non è entrato. Ok, siamo soli soletti. E i cani sono in Germania, sono a casa? No, ce l'ho sempre a casa quello, l'altro è a quel suino ancora. Forse a gennaio ce lo porta via. Ah, dunque le fai fare Natale a casa, poi in Germania, dai. No, in Germania, non potevi andare in Germania, in Inghilterra, semmai, a Londra. Vabbè, se ne hanno me già, ma fatto mi dezzarà di portarglielo su, il bianco no, ma la lupa di portarla su a Genova, perché vengono lì loro a prendersi. Ah, ho capito. Vabbè, piano. Oh, so, riprendo subito che mi stanno chiamando, entro subito, dai, lui mi ascolta. Sono qua. Allo. Signor Bacchisio, mi scatta, era ora. Sono attenatore. C'era Marino, ma si è sentato un attimino. Poi gli altri sono su PMR, Graziano e un altro sono su PMR. Tu vai che andavi sì. Andavamo così, andavi. Ma ho messo con l'applicazione nel telefono. Non se scendi, Sì, adesso sì. Secondo come ti muovi, non esci. È lo spinotto, il cavolo di spinotto. Ma non si può ciambare. Bisogna cambiare il trattato. Tu è la bagnoletta. Bisogna metterti insieme. Quelli a baionetta e tipo metteva via io Guido nell'intake e è così sì, secondo me mettere in movie non funziona. Infatti stavo dicendo che l'applicazione nel telefonino me l'ho messa. Guarda che CB Talk. Aspetti, CB Talk. Poi ci metti la T, la L e la A con la K. CB Talk. Con la capo finale. Allora, sì, L A con la capo finale. No, guarda che la T A L K Talk. No, T, A, L, K. Così, T, A, L, K, Cibital. Sono su cosa? Su Google vai, su Google e metti Cibitalk e ti esce la sigla, ti esce pure. Poi ti esce il coso di cosa installare, ti esce. E poi devi fare registrazioni. Ti chiede la registrazione, fai la registrazione e fai tutto quanto. Ciao, vengo io domani mattina, te lo faccio vedere. Sennò lo facciamo assieme, te lo faccio vedere, poi devi registrarti tutto quanto. E puoi parlare con tutti quanti di fuori, però c'è dall'altra parte dove c'è CB, che lo metti che c'è la freccetta e tutto quanto, lì possiamo parlare nel canale 1, possiamo parlare noi. Chi è l'altro? Buonasera tu. Ehi, ben entrato. Ok, riprenditela. Bacchisio c'è. Avviene avanti, Bacchi. Sì, ciao Antonio, buonasera. Ok Bacchi, ce la sentiamo, dai, ce la sentiamo domani. Ok, riprendi Antu. Allora Antu. Senti, funziona tutto, sì. E bene pure, stai arrivando forte anche. Andiamo e andiamo. Ok, ciao Antu, alle prossime. A mangiare sei andato. So. Bacchisio si è sentato perché è arrivata la figlia. Antonio ha chiuso. Stava provando l'apparato se riusciva ancora. E andava. E allora Giomari? Ok. Provando, bisogna provare sempre. Almeno non si addormentano. Infatti, bisogna provare sempre se funziona o non funziona. Ehi, da ragione. Va. Sì, ero impegnato sempre. C'era gente che non potevo mollare, però mi stava ascoltando. Passo basso mi stava ascoltando. Fatto bene, grazie a te che ha chiuso il PMR. Già è acceso, però era volume basso, capito? E non capivo cosa stava dicendo perché c'era gente. Vabbè, se c'è gente, ecco, non fa neanche entrarci. Io stavo parlando con Graziano, poi è entrato Marino qua nella 27 e ho lasciato a Graziano e stavo parlando con Marino. Ah, ma si è sentato Marino o Buru? Io ti sto a farati. Già loro la pappera, così che è chiaro che ognuno si ritira. Buonasera. Buonasera anche a lì. Avanti. Ciao a tutti. Ciao anche a Gio Maria. Roberto, trovato me. Qual è il sito, mi ha detto che non è lì su, che quello che ho trovato io è il sito giusto, però non mi ha detto che non è lì. Io ho provato dei siti, ma anche Bassone, poi c'era quello whisky, come stava dicendo lui, ha descritto whisky, mi scende un pugno di whisky. Sì, ciao Dio Buru, l'ho installato, però no, non me ne date il microfono. Ah, Tajan mi ha detto che non esistono il sito, che è un altro sito. Vai due, e sappia che cosa. Ha detto che mi fate già belluni, andate, vabbè. Ok. Vabbè, avanti Giovanni. Vedo che io il microfono si interessa, vedo che io. Grazie alla verità che ti ha pigliato l'abbaglio, ha confuso i numeri, e poi ce lo sa chiappa. No, non è così, ha già avuto il burro, ma costa, ma già avuto uno che costa burro 100 euro. Bene, in tutto bene 100 euro e 5 centesimi, quindi, però è della midra del coso, che va bene alla 48. Allora, piglia di viro, solo visto che va a cavallo. Ciao, fra, comunque, buonasera, ben sentito. Ciao Giovanni. Ragazzi, qui c'è una cosa a me che sappia non mi abbiamo, non me l'ha contenuta. È meglio questo. A me, sinceramente, non mi fa, se non me l'avrei salato, per cui non va bene come sono, dai. Vabbè, però a chi piace è meglio che se lo tenga buono, no? Così che sei la ragione. Se di là bisogna sentire. No, saranno fra. È uno spizio più che altro. Si possono fare, poi mollarli. Dai, perché non è bianco. Che quando entri e ti metti 2 minuti a ascoltare, e c'è uno in Sardegna, è entrato adesso, lì, là, avanti, la cazzo che ha pure lui. Vabbè, e via, allora, saranno, no, faccio una mia pazienza, forse paese. La vita è carrogna, no, oggi mi fa niente, dice che ecco perché non mi interessa, capito? Magari io l'avrei messo anch'io, però non mi interessa, per cui non oggi più gana, fra, così che fate voi. Ecco, e anche ti dico cosa c'è, cancellanico, avanti tu. È un'applicazione dove entrano tutti quanti, ma c'è dall'altra parte, ci sono i canali, e puoi parlare, ci possono parlare io, tu e qualche altro, chi la vuole, capito? Mi sembra che sia solo il canale 1 che puoi essere più tranquillo, mentre sull'altra parte non è troppo già botto, ma te sono i 50 video, fa vedere come fai, ah no, lì infatti no, non entro manco io, è troppo già la mia divisione, e voi se ne accavallano uno con l'altro e coso diventano da uno diventano magari da due diventano 40 e non guardare deve entrare anche sul canale 1 così, capito? Perché ormai la cosa sta andando avanti finché non si stufano tutti, dai. Sì, quello sì, no? In quelle frequenze lì non vado a entrare. Se entro nell'altra dietro, che è da 1 a 40, quindi ci puoi parlare da 1 fino a 40 ci puoi parlare. E parliamo solo noi, 3, 4, che non c'entra altro nessuno, quelli di fuori non entrano. Sì, allora si può parlare lì, ma alla fine, tanto parliamo vengono tutti da casa specialmente. Che ce la fa fare? Usiamo questo, sai che è migliore. Sì, infatti questi da casa sono i migliori. Qua parlando, qua vicino a Sassari, sì. Appunto, perché di più esci con l'app. Esci, anzi, sono migliori lì che l'app. Perché l'app si ferma a 30 km, si ferma. E, vabbè, anche noi non è che prendiamo, però giorni di propagazione sentiamo la Sicilia, parliamo con la Sicilia, parliamo con tutti e via. Mentre con quello non lo so se ci riesce a parlare così. Infatti, con l'altra con quell'applicazione devi parlarci in quei altri canali, ci puoi parlare. Però nel dietro no. È così, sì. Al limite, a meno che uno non è in macchina, oppure è a Sassari in giro, lì e là, allora si entra dentro quell'applicazione, uno che non ha la radio in macchina, che non ha il baracchino, entra quell'applicazione, lì si entrano tutti e si parla tutti quanti. Però è comodo solo per quello. Infatti, è comodo solo per quello. Però è meglio di tu. Sì, a 100.000 volte. Ciao Luca, davvero. Perfetto, ciao Franco. Ciao Luca, ben ascoltato. Mi sa che devi fare miraglia, non so lì a sotto. Sì, anche qua ha cominciato già un'ora e passa, un'ora e più ha cominciato. Adesso si è calmato un pochettino. Sempre meglio la vecchia maniera, il baracchino. Sì, ma infatti lo stavo dicendo, lui. È sempre meglio la vecchia maniera. Capito, non siamo manco una cosa reale, sì, è bello perché male si fa compagnia, però baracchino, sono venuta di qua, avanti giorni. Infatti, baracchino è baracchino. E non fai altro. A manchino che intendi, quando vuoi intendi, quando vecchio intendo tutto quanto davvero. E vabbè, andava così. Ciao Mari! Ok, ciao Lu, buonasera. È quello che dico anch'io, Tanto, fra di noi già ogni tanto ce la facciamo la sera la chiacchieratina, anche se sono breve le chiacchierate nostre, però 10 minuti, ma fa sempre almeno siamo tranquilli. Così è fra. Quello sì, c'hai ragione. Vabbè, tanto, ora se sto guidando non lo posso usare. Devo, perché devi pensare a guidare. Ragazza, devo dare con in mano, so cavoli amari. Allora è meglio non averlo. Ciao Dio Mario, sì, è breve ma intenso. Come? Ho detto che si dice breve ma intenso. Vabbè, già mai capito con la mente, per cui va bene così, boh. È tutto altra cosa, dai. Ogni tanto magari qualche chiacchierata anche lì già si potrebbe fare ugualmente. A chi piace. Ok. Riprenditore. Ehi. Andiamo via, andiamo. Oh, Giulia. Graziano, Serrato. Adito, arrivederci. Sì, ha chiuso Graziano poco fa. Ho sentito quando stavo accendendo e stava chiudendo. Poi hai notato in quella dove ci sono i gruppi, che ci sono un casino di radioamatori. Ci sono anche radioamatori che stanno entrando. Cosa gli piace? E se ne toccano, se ne entrano in gruppo, ne sono entrando, cacca. Una conversazione in 40, 50, ed è piaciuta un giorno o due, ma che andiamo in questo paese? Perché ho sentito un sacco del radioamatore e lì è così, quando comincio adesso dici 150, 120, 125 anche ieri, 125 di notte, 125, quando uno parlava e si dimetteva, ma a me è intrusione, a Marzano. Io quando vado in notte, quando gioco a cose, ho pensato a dormire, no, attaccare il telefono. Vabbè, tu devi andare a lavorare, è per quello. No, non ci devo andare a lavorare io, ormai ho finito di lavorare. Sono a gennaio faccio 4 anni, quindi sono già a posto. E allora sei 4 anni più di me. Sono già arrivato. Vero Gianmari? Gianmari si è assentato. No, mi stavo dicendo cose, abbiamo più 4. Ed è un po' così incantata, ecco, scendere. Io sono andato adesso, a giugno, questo giugno. Allora stai assaggiando appena. Io sono già 4 anni faccio. Già va bene. Per l'inizio già piace, poi vediamo più avanti. Va bene, vai, io chiudo. Già le 8 per cui approfitto, vai. Ciao fra, state bene. Ciao, sono in casa, a domani se coincide. Ciao Luca, saluto anche a te in casa. Ciao Tori, prendi tu. Io chiudo, vai. Buon proseguimento, a domani. Ok Gianmaria, anche io sto chiudendo anche Mecciamene, vai. Andiamo dallo telefono. Vabbè dai, saluto anch'io. Ci sentiamo Gianmaria. Ma non mi ha messo bene il nome. Vabbè dai, riprendi, che non me la ricordo più il nome. Vabbè, sempre Franco sono. Ciao, dai, siamo a tutti, allora chiudo anche io. Ci sentiamo. E me ne scendo giù. Ci sentiamo, ciao Tore, ciao Gianmaria e ciao anche a Luca. Luca, io sto chiudendo. Vabbè, ci sentiamo, ok. Ciao Gianmaria, ciao Franco e a chi c'è in ascolto. Ciao a tutti, dai. Buonasera, buona domanda. Ciao Luca.